Le aspettative sono contrastanti, ovviamente dipende dalla prospettiva da cui le si osservano. Da parte occidentale c'è naturalmente un certo scetticismo rispetto alla possibilità che la visita di Xi Jinping in Russia e l'incontro con Putin possa determinare sostanziali passi avanti per la risoluzione della guerra in Ucraina, mentre secondo altre prospettive, quindi in modo antitetico rispetto a quanto si pensa in Occidente, vi potrebbe essere la possibilità che Xi Jinping riesca in qualche modo a stabilire un elemento di mediazione rispetto alle campagne militari russe in Ucraina. È difficile fare dei pronostici in questo momento. Terrei sempre a mente, diciamo, un principio fondamentale, che è quello per cui la Russia ha una sua politica estera e di difesa che non è dipendente dalla Cina, sebbene naturalmente la Cina rappresenti un attore molto importante rispetto a una Russia che è sempre più isolata politicamente rispetto all'Occidente. D'altra parte bisognerà vedere anche che cosa farà Xi Jinping rispetto ai legami della Cina con l'Ucraina, perché si paventerebbe l'ipotesi di colloqui telefonici al termine della visita di Xi Jinping in Russia con Zelensky e con le autorità ucraine, per cui il ventaglio delle ipotesi è aperto e, diciamo, ci toccherà aspettare un paio di giorni per capire. Però rimango un attimo sullo scetticismo occidentale che hai citato. Questo scetticismo nasconde la preoccupazione e la paura della possibilità di consolidarsi di un asse tra la Cina e la Russia? L'asse tra la Cina e la Russia c'è già, esiste, è un asse che vede i due paesi allineati su molte questioni di politica estera. Lo scetticismo, che non di rado, diciamo, sfocia in aperta critica e opposizione rispetto a quanto fa la Cina da parte dei paesi occidentali, invece si basa su ipotesi che però non sono confermate, anzi sono diciamo categoricamente smentite. Per esempio, diciamo, c'è questa visione diffusa che mi dà sempre un po' da pensare rispetto al sostegno indiscriminato della Cina alla Russia rispetto alla campagna in Ucraina. Io non credo, basandomi su quello che dicono le autorità cinesi e non su quello che penso io, non credo che i cinesi siano molto contenti della crisi che si è aperta in Ucraina per varie questioni, a cominciare dalla necessità e dall'interesse cinese rispetto al mantenimento della stabilità, della sicurezza internazionale. D'altra parte è vero ed è evidente che la Cina è un paese la cui partnership con la Russia è autoevidente già durante i giochi olimpici invernali a Pechino all'inizio di febbraio del 2022, pochi giorni prima che iniziasse la campagna russa in Ucraina. I due paesi hanno ribadito che tra Mosca e Pechino vi è sostanzialmente un'amicizia senza limiti. Vi è un'amicizia, vi è una partnership, e questa partnership indiscriminatamente includa qualsiasi componente o elemento è un altro discorso ed è un'altra, diciamo, un altro paio di maniche, a cominciare dal fatto che comunque la Russia non ha ricevuto sostegno militare dalla Cina nella sua campagna militare in Ucraina. Vi è motivo di credere che i cinesi non siano proprio felici di quanto sta accadendo. Sta di fatto che a livello internazionale l'unico piano di pace per il conflitto in Ucraina è quello avanzato dalla Cina. In particolare la Cina ha disegnato un quadro che si basa sulla sicurezza collettiva. Cosa sostiene la Cina per arrivare alla pace? Farei una precisazione: è diffusa l'idea che si tratti di un piano di pace. Il documento ufficialmente parla della posizione della Cina per la risoluzione politica della crisi in Ucraina, quindi leggendo il documento effettivamente si ha a che fare, si è di fronte a un documento che esprime quella che è la visione cinese rispetto alla crisi in corso. Per quanto riguarda il contenuto, vi è sostanzialmente una riproposizione in modo più articolato del piano in 5 punti che era stato definito il 25 febbraio dell'anno scorso, quindi un giorno dopo l'inizio della campagna militare russa in Ucraina. Rispetto alla sicurezza e all'attenzione cinese alla sicurezza, alla prospettiva cinese sulla sicurezza internazionale, questo documento del 24 febbraio 2023, quindi come sempre accade quando si parla di Cina, le date non sono casuali, le tempistiche non sono scelte a caso. Ovviamente in questo caso siamo di fronte al primo anniversario dall'inizio della guerra, quindi un anno esatto dall'inizio della guerra. Venendo alla questione della sicurezza, viene ribadito quanto era già stato detto l'anno scorso, e sostanzialmente la Cina dice che la sicurezza di un paese non può essere perseguita a spese o a danno di altri paesi. Il riferimento alla NATO e all'espansione a est dell'Alleanza Atlantica in Europa è evidente, quindi c'è un riconoscimento rispetto a questo delle preoccupazioni di cui Putin non ha fatto mistero, cioè di vedersi la NATO o paesi che fanno riferimento alla NATO che sono parte dell'Alleanza Atlantica sostanzialmente ai propri confini di casa. Faccio però presente, sempre per problematizzare la posizione della Cina, perché diciamo questo è uno dei principi, quindi vi è un riconoscimento delle preoccupazioni russe. Primo punto del documento di cui stiamo parlando, di quello che viene definito piano di pace proposto dalla Cina, dice che è necessario rispettare la sovranità territoriale di tutti i paesi e in questo caso naturalmente siamo di fronte a un riconoscimento delle necessità dell'Ucraina rispetto alla salvaguardia del proprio territorio nazionale. La Cina è in una posizione di mediazione di diverse istanze. Sarebbe irragionevole pensare o sperare che la Cina abbandoni completamente le sue relazioni con la Russia e si muova nel senso di una condanna del paese. Questo naturalmente lo si può sognare, ma se sono queste le aspettative, siamo ben al di là di un piano di ragionevolezza.